little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you're wrong. Little sister, don't you do what your big sister done. Little sister, don't you do what your big sister done. Grande Elvis, davvero, davvero, davvero indimenticabile. È sempre una forza della natura. Che voce Elvis. Adesso, alziamo i microfoni perché sono tornati nello studio i nostri amici dei Backseat Boogie Trio. Here we are. Yes. Allora, siete in forma? Siete caldi? Siete caldi. Avete avuto la vostra porzione di birra di là? Ma io ho trovato questo curioso liquore, nocino. Nocino? Sì, sa di noce, credo che sia il fratello del limoncello, però in versione noce. Va bene. Ci va sto bene. Dando dentro. Spero che ti aiuti a cantare meglio. Speriamo. Senti, il repertorio arriva da... Fate pezzi anche oscuri o classici del rock and roll? Ma non lo so, no, forse oscuri proprio no. Adesso, per esempio, stavamo pensando di fare questo pezzo di Johnny Burnett che noi abbiamo ascoltato proprio in fondo al CD che avevamo, al nostro misto, che non si sente molto. Noi facciamo in nostra versione, non so se è obscure, comunque cerchiamo di farlo al meglio. Vai. Good run. Rocking Tonight, complimenti, ma che bella versione questa. Grazie. Davvero, complimenti, bellissima, grazie. Bellissima. Ricorda forse un pochettino Reverendo Horton Heat. Che bello. No, il riferimento forse è un po' quello, nel senso che almeno questo mi sembra. Una sorta di rockabilly psicotico. Sì, no, poi ci piaceva questo pezzo. Di psicotico noi però abbiamo solo il batterista. Però no, ci piaceva questo pezzo un po' perché in effetti nel repertorio di Johnny Burnett insomma si discosta un po', poi ha questa carica molto drammatica. Sì, sì, decisamente molto, un po' minore. Esatto. Davvero, davvero, complimenti davvero. Il vostro repertorio sarà infinito, noi purtroppo possiamo limitarci a 4 pezzi soltanto, perché nel frattempo sono arrivati altri ospiti e la notte sembra lunga ma in realtà non lo è. Oh ragazzi, io vi ringrazio davvero di cuore per aver grazie deciso di passare la notte con Rock FM e gli ascoltatori di Rock FM. Backseat Boogie Trio ha un sito, presumo. In realtà abbiamo MySpace, che è www.myspace.com, uh-huh. Esatto, / Backseat Boogie Trio. va bene. Backseat Boogie Trio, e lì trovate insomma tutte le date, tutto quello che serve. Ok, la prossima è insieme al resto della band che abbiamo avuto poco fa e al live, che è una data molto importante, sicuramente è importante ricordarlo. Con Marco Di Maggio. Con Marco Di Maggio, ragazzi, 6 giugno. Niente male. Con cosa ci salutate? Guarda, sono un po' indeciso, però perché ne abbiamo talmente tanti che vogliamo fare, io finirei con un rock and roll un po' picchiato su duro, no? Vai. Ok, dedicato a Steve, Hard-Headed Woman. One, two. Oh, well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, a man has a tool ever since the world began. Oh yeah, ever since the world began. Listen here to me, and don't you let me catch you messing around an apple tree. Oh yeah, ever since the world began, a hard-headed woman is a thorn in the side of a man. Oh well, that's a tall lie, lot of cliché. Keep your cat up in your fingers, I'm a curly hair. Oh yeah, ever since the world began. King who is doing swell, and then he started playing with an evil Jezebel. Oh yeah, ever since the world began, a hard-headed woman is a thorn in the side of a man. A man that goes in trouble ever since the world began. Oh yeah, ever since the world began. A hard-headed woman is a thorn in the side of a man. Hey! Backseat Boogie Trio, grazie davvero. E andiamo avanti con una canzone scelta da Mico, che è lui che cantava, che ci ha cercato nel mio borsone di dischi qualcosa che potesse particolarmente interessargli e l'ha trovato. Si chiama Wayne Hancock. A Peggy Sue. On. That's what daddy wants. My low down blues are long gone. Want. Questo era Wayne Hancock da Austin, Texas. Era proprio lui. È un pezzo rockabilly che veniva spostato verso New Orleans da una sezione fiati veramente deliziosa, davvero deliziosa. Lui che esegue notoriamente un artista honky tonk, rockabilly, country così come era country Hank Williams, e il riferimento non è casuale, ve lo garantisco. Questa è Good Rockin' Tonight, sono le 4:15, ve la state spassando, ve la state godendo, mi fa piacere pensare di sì. È una lunga notte di rock and roll con tanti ospiti, tanti amici qui in studio e anche a casa, a giudicare dai messaggi che continuate a mandare. Ragazzi, ve la volete vivere tutta quanta fino in fondo. 335-100-7777 è il numero di sms che dovete utilizzare se avete qualcosa da dire al Faulisi e al resto del mondo di Rock FM. Andiamo, siamo usciti poche volte dagli Stati Uniti questa notte, vero? Un giretto in Belgio, non fosse perché è lì che incidono i Seat Sniffers, un giretto in Belgio a questo punto diventa decisamente obbligatorio. Piacere di vedermeli dal vivo un po' di tempo fa. I Seat Sniffers, nome curioso che si sono dati questi signori. Gli annusatori di sedili. Ma ognuno c'ha le sue manie, loro se gli date un passaggio vi annusano i sedili, va bene. I Seat Sniffers dal Belgio li abbiamo ascoltati con Loudmouth. E allora, visto che siamo in Europa, perché tornare negli Stati Uniti se non prima di fare un giretto verso la Svizzera e magari anche Austria, un po' di qui e un po' di lì, è lì che si incontrano più o meno. I Mars Attacks, io ho un debole per i Mars Attacks, non l'ho mai nascosto, tant'è che li ho fatti scendere a valle qualche volta per farli suonare in qualche locale della zona di Milano. I Mars Attacks sono veramente strepitosi, caratterizzati tra l'altro da una tromba che quando la suonano dà maggiore grinta alla loro musica. Sanissimo rockabilly con i Mars Attacks che ci ascoltiamo con What a Beat! Well, 99 ways to make me feel bad, 99 ways to drive me mad, 99 ways to make me go wild. 99 ways to make a man cry like a child. 99 ways to make a man cry like a child. 99 ways to make me believe you're true. 99 ways to make me feel blue. 99 ways to drive me insane. 99 ways too much for a man. 99 ways too much for a man. Back to stay. 99 times you two time me. 99 times too much for me. 99 times too much for me. First time I thought we'd change your ways. Second time I still heard your phrase. 98 or 72. Why I still wanna be with you. Cause there are 99 ways to love a ride. 99 ways to fuss a fight. 99 ways to have fun with you. 99 ways cares about way through. 99 ways cares about way through. 99 times you've gone away. 99 times you come back to stay. 99 times you two time me. 99 times too much for me. 99 times too much for me. Mars Attacks anche loro questa sera, Good Rockin' Tonight. Continuo a chiamarla sera, ma ormai è mattino e fra un po' le prime luci dell'alba ci baceranno la fronte. E anche questa notte qui con voi il Faulisi a mostrare le sue tonsille a quelli del palazzo di fronte. Come state? Good Rockin' Tonight! Siete su? Ce la fate? Ci facciamo aiutare anche da Tennessee Ernie Ford, dalla sua lontana California e dai suoi lontani primi anni 50. Lui eseguiva un hillbilly boogie di quelli strepitosi, di quelli che facevano ballare allora, e gli appassionati di anni 50 continuano a ballarlo oggi. Voi siete appassionati di musica anni 50? In caso non lo fosse, non è grave, ma certo aiuta, perché musica assolutamente spensierata, assolutamente valida dal punto di vista tecnico, è musica che ispira al buon umore. È musica che dal punto di vista storico è importantissima, perché è stata la prima vera grande fusione tra la musica dei bianchi e dei neri. Il boogie e dei neri con il country dei bianchi diventa hillbilly boogie. E lui, Tennessee Ernie Ford, era un grande rappresentante di questo stile. Tennessee Ernie Ford lo ascoltiamo con Hey Mr. Cotton Picker. Yonder comes a cotton picker walking down the road, a puffin' like a locomotive carrying a load. Hey, Mr. Cotton Picker, what you gonna do? Gonna get gone away from you. Here is Mr. Cotton Picker passing by my shack. Seems as if his back is breaking with a cotton sack. Hey, Mr. Cotton Picker, when you getting paid? Reckon as soon as the sack gets weighed. He's been plucking old King Cotton all day. Sun. By tomorrow, sweat's forgotten. I've got another feel, it must be done. There goes Mr. Cotton Picker, toting all his pay. Just a sack of snowy cotton took him all a day. Hey, Mr. Cotton Picker, hope you have a ball. Hope you get all that's coming to you. Carrying a load. Hey, Mr. Cotton Picker, what you gonna do? Gonna get gone away from you. Here is Mr. Cotton Picker passing. passing by my shack. Seems as if his back is breaking with a cotton sack. Hey, Mr. Cotton Picker, when you getting paid? Reckon as soon as my sack gets weighed, he's been a plucking old King Cotton all day in the sun. By tomorrow, sweat's forgotten. I've got another feel, it must be done. Mr. Cotton Picker toting all his pay, just a sack of snowy cotton took him all the day. Hey, Mr. Cotton Picker, hope you have a ball, hope you get all that's coming to you. Tennessee Ernie Ford, che anno era? Fatemi dare un'occhiata alla copertina, era il 1952, ancora non era rock and roll, pensate, ancora non avevano deciso di dargli quel nome, già suonava come il rock and roll, pensa. Allora, qualcuno mi rassicura, sì, stanno bene, i nostri ascoltatori se la stanno godendo, questo mi fa star meglio, sapere che siete lì a battere il piedino, se non addirittura a ballare queste belle vecchie canzoni degli anni 50, nonostante lo orario e sono le 4 meno pochi minuti, ma qualcuno si appresta a chiudere gli occhietti, tal Brian. A questo punto mi rimangono una decina di minuti di ascolto prima di entrare in zona d'ombra. Ti auguro un'ottima notte, se tutto va bene ci vediamo il 31. No, fammi capire, cos'è? Ci lasci questo dubbio, Brian? Non scherzare, il 31 ci vediamo, punto e basta. Per il nome che porti, è una responsabilità. Brian Setzer, lo ascoltiamo con Rock and Roll Ruby. Watching all the rhythm in her feet. She's the rock and roll Ruby. Rock and roll Ruby. Rock and roll. When Ruby starts to rock, boy, satisfies my soul. Now Ruby started rocking about 1 o'clock. And when she started rocking, she just couldn't stop. She rocked on the tables and rolled on the floor. But everybody yelling, Ruby rocks some more. She's the rock and roll Ruby. Rock and roll, rock and roll Ruby. Rock and roll. When Ruby starts to rock, the boy satisfies my soul. Rock a little bit more. She's the rock and roll Ruby. Rock and roll Ruby. Rock and roll. When Ruby starts to rock, the boy, it satisfies my soul. Because your Ruby wants to rock. She's my rock and roll Ruby. Rock and roll Ruby. Rock and roll. When Ruby starts to rock, the boy satisfies my soul. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Rock and roll, it satisfies my soul. Questa era una canzone scritta da Johnny Cash, The Man in Black, e, che però è stata portata al successo, per quanto locale, da Warren Smith, sì, proprio lui, Rock and Roll Ruby, e qui ripresa dal bravo Brian Setzer, che presto avremo in Italia con la sua banda. Gli Stray Cats nella seconda metà di agosto. Questo disco è intitolato Rockabilly Riot, volume 1, quindi siamo in trepidante attesa che lui si decida, bontà sua, di incidere un seguito a questo disco, che è in pratica un tributo vero e proprio alla Sun Records. Pensate che le 23 canzoni, generosissimo questa volta Brian Setzer, incluse in questo album, sono proprio tutte quante, escono da quel catalogo meraviglioso, indimenticabile, ricchissimo della Sun Records, quella casa discografica che ha dato i natali a gente che portava il nome di Johnny Cash, Roy Orbison, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, senza contare tutti i neri che sono passati da lì, da Howlin' Wolf a mi pare anche lo stesso Rufus Topaz che abbiamo citato all'inizio della trasmissione, insomma tanti altri. A questo punto un saluto a Giacomo, guardo, anzi un saluto, un abbraccio a Giacomo, grande fratello di Firenze, che mi è successo di incontrare una volta a Rimini, una volta in Toscana, e il grande Giacomo, grande appassionato di musica rock and roll e di moto, quindi viaggiamo sulle stesse onde, come tanti altri che ascoltano, seguono questa radio. Bene, 335-100-7777. E allora parte Ruth Brown, ecco, finalmente una voce femminile dopo tanti maschiacci. Ruth Brown, una delle stelle del rhythm and blues fine anni 40, primissimi anni 50. Vai! East, south, west, ever which way, as long as I'm moving, long as I'm moving, long as I'm moving, long as I'm moving, long as I'm moving, baby, I don't care. You got big broad shoulders built like a trailer truck. You got big broad shoulders built like a trailer truck. Let me run with your daddy and maybe I'll change my luck. East, south, west, ever which way, as long as I'm moving, long as I'm moving, long as I'm moving, long as I'm moving, long as I'm moving, baby, I don't care. East, south, west, ever which way, as long as I'm moving, long as I'm moving, well, long as I'm moving, long as I'm moving, long as I'm moving, baby, I don't care. comes the guitar. We're all set to make a hit rock and roll record. Now let's hear it. Have you ever been? Have you ever been? Well, needless to say, you're A-OK with WMEX 1510. Dopo Ruth Brown, obbligatorio, deve arrivare anche l'altra regina del rhythm and blues dei primi anni 50, Laverne Baker, proprio lei. Laverne Baker, che abbiamo ascoltato con Jim Dandy, incideva per la Atlantic Records, è stata una delle prime stelle dell'Atlantic Records. E andiamo avanti con questa parentesi tutta al femminile. Bonnie Raitt non ce la faccio. Bonnie Raitt non ce la faccio, ma posso mandare in onda qualcosa di Brenda Lee. Brenda Lee è stata un infant prodige nei primi anni 60, fine anni 50. Una cantante eccezionale che ha saputo affrontare ogni tipo di repertorio, persino il gospel. Quindi grazie a lei questa notte vedremo la luce. A mani giunte. Ecco, è lei, è Brenda Lee. La vedete la luce? Ci sta salvando. Anche lei a Good Rockin' Tonight con I'm Saved. I used to smoke, I used to drink, I used to smoke, drink, and dance a boogaloo. I used to smoke and drink and dance a boogaloo. Yes, I did. But now I'm standing on the corner praying for me and you. Oh, yeah. That's why I'm saved. I'm saved. People, let me tell you about. Saving on me, beating on my baby strong. Oh, yeah. I used to cuss, I used to fuss. I used to cuss, fuss, and boogie all night long. I used to cuss and fuss, cuss and fuss, and boogie all night long. You know I did. But now I'm standing on this corner, I'm the right from wrong. Oh, yeah. That's why I'm saying. Soul saving on me, beating on my big bass drum. cheat. I used to lie and cheat and step on people's feet. I used to lie and cheat. Lie and cheat, don't step on people's feet. You know that I did. But now I'm stepping on the glory. Salvation is my belief. Yes, it is. Because I'm saved. I am saved. People let me say I'm a kingdom coming. Oh, I'm saved. I am saved. How can I preach until you deaf and dumb? And that's all saving on me. Even though my feet based on. Yeah, that's why I'm saved. I'm saved. I'm saved. Oh, have mercy. I am saved. I'm saved. I'm saved. I am saved. I'm saved. That's all saving on me. Even though my feet based on. Yes, I am. I said I'm saved. Yes, I'm saved. Love, love, love. Brenda Lee, Brenda Lee, che fascino questa donna. E adesso ci ascoltiamo qualcosa un po' boogie da, dall'Inghilterra. Anche, anche lei, ho conosciuto anche lei, Dana Gillespie, ho avuto modo di conoscere Dana Gillespie. Ah, non ve l'ho detto. Ho avuto il grande piacere di assistere a un concerto di Laverne Baker nel 1990 a New York. Ragazzi, porto ancora i segni sul cuore. Dana Gillespie, anche lei ha lasciato il segno su quest'uomo. Dana Gillespie, Hot Stuff, si intitola questo disco della Ace Records. Lei è inglese, ama il rhythm and blues dei primissimi anni 50, ma anche di fine anni 40, e lo dimostra anche in Loving Machine. You pull your lever on the right, two arms jump out. Wraps all around you, makes you scream and shout. After my house, I've got something you've never seen. Well, I just built me a brand new loving machine. Put another nickel in. A bottle of Attic Hall. After my house, drive my loving machine. Loving Machine, la bella versione di Dana Gillespie, anche lei questa notte a Good Rockin' Tonight. Sono le 4:10, di là smontano i loro strumenti e di qua è arrivato fresco fresco un nuovo ospite che avrà delle cose da raccontarci molto interessanti. Sì signore, ma non solo interessanti ma anche fresche, cioè la... L'agenzia ANSA ci fa le pippe a noi. Sì, sì, perché noi le notizie le portiamo mentre succedono. Va bene, allora noi andiamo avanti con i Southern Culture on the Streets. Mai sentiti nominare? Stiamo parlando di un trio di fulminati della North Carolina con alla testa una ragazza. Che ragazza? Che polpastrelli. Southern Culture on the Streets. Vi ascoltiamo con Hitting on Nothing. e maledetti questi Southern Culture on the Skids, anche loro a Good Rockin' Tonight. Un trio di... difficile definirli questi ragazzi, questi bravi ragazzi che se li incontrate andate sull'altro marciapiede perché non si sa mai. Southern Culture on the Skids fanno del rockabilly, del rock and roll, influenzato da mille altre cose, insomma sono loro e fanno la loro musica. Allora qui continuano ad arrivare i messaggi come se nulla fosse. Uè, ragazzi, guardate che sono le 4 e un quarto, sono le 4 e un quarto. Questo è il turno di notte del Faulisi, eh sì, il Faulisi vuole lasciarvi in bellezza. Finché ce la facciamo si fa così, sì signore, fino alle 8 del mattino, poi colazione con gli amici genovesi che sono sulla strada, ammesso che non ci abbiano ripensato, e poi si va avanti con la settimana prossima, lunedì Garage Land, martedì Country Skyline, giovedì che cosa? Ah, Good Rockin' Tonight. Giovedì è l'ultima trasmissione del Faulisi a Rock FM, quindi giovedì 29 dalle 23 alle 24 ci si vede, ci si sente perché dobbiamo dirci delle cose, dobbiamo farci l'ultimo saluto, l'ultima bella pacca sulla spalla, e poi vabbè, questo per quanto riguarda me, il rapporto diretto mio nei vostri confronti e viceversa, poi c'è la grande notte la grande 24 ore, la 24 ore, ovvero dalle 18 del 30 alle 18 del 31, tutti quelli che hanno lavorato in questi 18 anni a Rock FM, oggi e anche in passato, saranno qui, ci sono tutti o fisicamente o con contributi telefonici, perché qualcuno si è spostato molto più in là dal punto di vista chilometrico. Che altro aggiungere? Nulla, credo che... Ah sì, importante, questa cosa qui è importante. I Platters non li avevamo ancora ascoltati questa sera e nessuno me l'ha fatto notare. Davvero, davvero indimenticabili anche loro, come, vabbè, insomma, come gran parte di quelli che sta passando il Faulisi questa notte. Ma i Platters sono i Platters. Only You, ricordo quando ero ragazzino, bambino, negli anni, un po' di anni fa, è tornata in classifica. Adesso è un po' che non la, nessuno la, la lancia. Ma i Platters comunque hanno, hanno fatto la storia, sono uno dei gruppi vocali più importanti dei, della musica pop e della musica americana in, in generale. Anche Carl Perkins arriva tardi questa sera, ma voglio dire, non li ho mandati in onda in ordine di importanza, neanche in ordine in, nel, nel, nel più disordine, nel, seguendo un criterio assolutamente disordinato, ecco, sono andati in onda così, senza alcun criterio storico, erano, erano i, i dischi erano tutti intorno a me, continuano a esserlo, adesso sono un po' più disordinati di, rispetto a quando ho cominciato, e sfogliandoli ho messo finalmente mano su un disco di Carl Perkins. Carl Perkins è stato il, uno dei, dei grandi stilisti del rockabilly, anche lui faceva parte della scuderia del Sun Records e, ed è uno che ha scritto delle canzoncine qualunque, una di quelle canzoncine, non so, tipo tipo Blue Suede Shoes. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoe. Lay off of my blue suede shoe. My car, drink my liquor from my old fruit jar, do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Show free to get ready now. Go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe. Lui inconfondibile era Carl Perkins nel 1955, se vogliamo essere precisi 26 dicembre del 1955, come dicevo, inciso per la Sun Records di Sam Phillips. Sfortunatissimo, sfortunatissimo, non ricordo quale canzone venne incisa, forse proprio Blue Suede Shoes. Viene incisa quasi contemporaneamente da Elvis o pochi, poco tempo dopo Elvis, solo che la potenza di Elvis insomma era sovrastante senza alcun dubbio, e quindi tra l'altro Carl Perkins ebbe problemi di salute, mi pare che ebbe un incidente stradale che lo tagliò fuori per un certo periodo, e si giocò con questi brutte coincidenze la possibilità di entrare nell'Olimpo dei grandi, non tanto dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista quantitativo, e sto parlando di dollaroni. Ma poi, insomma, la storia per tanti finì qualche anno dopo. Era il 1959 quando uno si schiantava con l'aereo, l'altro si ritirava in un convento, un altro ancora andava in giro con la cuginetta come sposa e veniva trattato male prima in Inghilterra, poi negli Stati Uniti, con tanto di boicottaggio totale. Insomma, che dire? Tanti dicono che nel 59 il rock and roll sia morto. Poi in realtà escono dischi come questo di Robert Gordon e Chris Padding giusto un anno fa che dimostrano esattamente il contrario. A Mess of Blues, Robert Gordon, Chris Padding. I just got your letter, baby.